problema del, forse non solo il problema della documentazione usata da Elias, ma è proprio l'esclusività dell'osservatorio che viene messa in discussione, no? Cioè, io penso, insomma, questo tipo di critica è stata avanzata da molti, mi viene in mente a tutto lo studio di chi, agli studi che sono invece stati dedicati, non so, ad altri luoghi del disciplinamento e dell'invenzione delle forme sociali in epoca moderna, che non sono la corte, appunto, che sono la parrocchia, che sono le comunità religiose, eccetera. Quindi gli studi di Bossi, che importanti perché hanno rivalutato tutta l'esperienza controriformista che invece era completamente messa in disparte. Per cui mi chiedevo e volevo chiedere appunto se non sia anche questo tipo di spostamento che in qualche modo costringe, no? Sì, beh, prima di tutto vorrei ripetere che non voglio essere ingiusto con Elias, perché il quadro generale rimane quello di Elias, dunque lo possiamo correggere, criticare, rimane il fatto che lui conserva il ruolo di una referenza fondatrice. Su quello che diceva Sabina, cioè questa questa attesa di reciprocità mi sembra di natura statuaria, nel senso che per fare una corte ci vuole un re che fa il re e dei corteggiani che fanno i corteggiani, ma non c'è scambio. C'è una circolazione, ma che va decisa, di uno che può sia creare, sia rivalutare verso l'alto e il basso i segni e il valore di tutto. E questo sì, ma ci vogliono due polli, ma uno non è capace di manipolare l'altro, mentre il primo è maestro il gioco completamente, e questo mi sembra direi una simmetria molto forte se facciamo il paragone con l'ideazione castiglionese. Dunque non credo si possa parlare di reciprocità. Poi hai fatto una domanda, anche lei signora ha fatto questa domanda su la centralità o la probabilità dei modelli di domesticazione. Su questo direi è lo stesso Elias che ha modificato nei libri successivi la proposta della società di corte, nel senso che nel libro del 33 lui pensa alla società di corte come sia il punto di arrivo, come la matrice di un processo generalizzato di domesticazione sociale, mentre nel complesso sul processo di civilizzazione suggerisce che ci sono diversi canali che confluiscono verso una trasformazione complessiva, che mi sembra personalmente più giusto, cioè l'ipotesi che stava dietro la società di corte, che la corte non solo era un simbolo, ma direi una specie di matrice generativa di tutti i comportamenti, non tiene perché ancora una volta dà un spettacolo, dimostra come si fa, ma non ha effetti al di là. Nel suo libro Sabina ha molto insistito su un aspetto normalmente negletto nell'opera di Elias, che è quello che lui chiama la formula del bisogno, e il modo nel quale gli attori sociali sono capaci di appropriarsi e di ancorare le strategie proprie in diversi campi di risorse. Ora, nel caso piemontese che tu hai studiato, funziona anche così la corte, Invece non funziona così la Corte di Francia, come sai benissimo. Cioè, puoi essere un bravo militare, se non riesci a importi la Corte, non serve. E dunque non è un po' di esercito, un po' di corde, un po' di ferro. Tutto va rigiocato sul campo della Corte, nel caso francese. Quello invece non è vero degli altri. Di domesticazione o di inquadramento sociale, né del vestito né per esempio del collegio, della scuola, che è un altro tipo di e allora lì il processo di civilizzazione segue delle forme, dei canali molto diversi, penso, che poi penso che siano in realtà sempre lo stesso. Cioè, dunque, mi pare che la corte di Luigi XIV sia un esempio però abbastanza, cioè, tardivo di corte. Cioè, mi sembra che varrebbe la pena di studiare un po' meglio tutta la stratificazione degli esempi e degli esperimenti di società di corte che l'ha preceduta. E penso, la Corte di Roma già mi sembrerebbe un buon esempio, ma penso invece soprattutto alle corti Tudor, no? Che gli studi inglesi ci hanno fatto vedere che già Enrico VIII e Elisabetta adoperano tutto il sistema degli onori in funzione proprio di controllo, no? Ecco, a questo aggiungerei un altro problema. Il discorso, diciamo, alla Gracian sulla la corte è una giungla, la morte degli altri è la mia vita, eccetera, è un discorso che circola in tutte le, mi sembra, in tutte le corti europee e circola insomma anche alla metà del Seicento, insomma, quindi mi chiedo, è un discorso letterario, cioè circola per una mediazione letteraria o circola per una condivisione di pratiche, di esperienze, o delle due cose insieme? E il terzo punto è questo. L'assoluta imprevedibilità, cioè la garanzia del funzionamento del sistema di corte è l'assoluta imprevedibilità e arbitrarietà dell'azione del re. Allora, questo naturalmente nella letteratura sulla corte e probabilmente anche nella maniera in cui i cortigiani vivevano la loro situazione. Ai nostri occhi era veramente così libero il re, l'azione del re? Ecco, o quanto era vincolata invece anche la sua azione? Grazie. Con la lettura di Marina Commedia? Sì, forse rispondo, non so, perché è una domanda complessa. È vero che è un esempio tardivo, che giustamente, come hai detto, vanno indagate altre forme curiali. Penso che vanno anche indagate eventualmente delle forme non curiali. Mi spiego meglio. Il posto dove le regole del gioco di tipo della trattatistica italiana del Cinquecento sono state messe in prova nella Francia del Seicento, non sono le corte, sono gli hotel come l'hotel de Rambouillet o gli altri, cioè posti gestiti dalle donne e dove la contribuzione dei cortegiani, senza però soprano, all'invenzione della forma sociale va giocato attraverso la conversazione, la corrispondenza, il commentario. va all'avventura con gli altri. Dunque io penso che per esempio questi hotel che sono centrali nella vita dell'elite francese fra gli anni 20 e gli 60 del 600 più o meno, sono stato un luogo di investimento di modelli sorpassati, ma che lì hanno trovato una nuova gioventù e un'efficienza. Tu chiedi se Gratian è una fine, un punto di arrivo, è una partenza, e poi se il suo successo rinvia un fatto di tipo letterario o un fatto di mediazione di pratiche. Ora, naturalmente Gratian non ha inventato, anche nella letteratura di critica della corte, già nel Medioevo si trovano queste cose. Due cose cambiano però. Una è il fatto che questo libro, che non è scritto come un trattato della corte, torna ad essere identificatorio della corte, e questo mi sembra molto importante. Il secondo è che è un libro di prammatica, cioè un libro che insegna come fare, non dice i corteggiani sono brutti, bugiardi, vigliacchi, come si è detto per secoli. Dice così devi fare, e se non fai così sei tu che ti fai avanzare. Cioè, è un libro che forse quando lo chiamiamo scinico c'è un rischio di non capirlo, perché non si pone il problema del cinismo. È un libro che dice come vincere, è un manuale del guerrigliero, se si vuole. È palesemente così. Questo invece mi sembra nuovo. Ora, a questo punto io non separerei la circolazione letteraria, la forma letteraria, da la mediazione delle pratiche sociali. L'ultima domanda naturalmente è molto difficile. Non credo che il re sia libero, nel senso che non deve calcolare, anche lui ha a fare con delle possibilità e delle impossibilità. È libero nel senso che è solo a avere uno sguardo complessivo. E lui ha una possibilità arbitrare. Ora, nella partita di calcio l'arbitra non fa quello che vuole, però ammaestra il gioco lo stesso, cioè si infigge delle regole, ma ha un rapporto alla regola che è diverso dei protagonisti, e su questo direi, cioè non è una libertà metafisica, se vuoi, anche lì è una libertà pragmatica, mi sembra. Io tre domande intorno a... Sì, però sarò brevissima, velocissima. Una è sul gioco, il senso di precarietà, la continua rimessa in discussione delle regole, del gioco dei favori. Tutto ciò genera, per esempio in Spagna, e Maraval ne ha a lungo parlato, una sorta di sociologia delle aspettative di senso della precarietà. La discussione di Maraval tende a far vedere l'universo mentale del 9 e del 600 come un universo mentale di estrema incertezza e precarietà, e anche nel caso del cortigiano a Versailles non è diverso. Però non c'è la posta in gioco. Se si sa la posta in gioco, non si sa qual è il bottino. Queste migliaia di cortigiani che sono sottoposti a un continuo e crudele gioco di favori e sfavori hanno cambiato al fondo le gerarchie. Ci sono dei rilevanti spostamenti all'interno delle fortune della nobiltà o no? Renata in qualche modo accennava agli studi inglesi, eccetera. lì è stato un po' contabilizzato il favore del re, dove va, chi premia, quali spostamenti fa. Nel parlare della corte di Versailles è come se tutti i personaggi degli scacchi fossero a risultato zero, è un gioco veramente di pura apparenza. Allora vorrei capire se l'arbitraggio del re fa in modo che non ci siano slittamenti nei ceti, nei gruppi interni alla nobiltà, o se invece questo gioco di arbitraggio si rivela essere un gioco direzionato a premi. Uno. L'altro è questo: nella possibilità di cambiare le regole del gioco da parte del re si arriva, non so se è stato già risposto attraverso gli hotel particolari, ma anche a investire di favori donne, o perlomeno veicolare le forme di grazia e di disgrazia attraverso le donne, in modo da alterare anche quello che è uno degli elementi del gioco uomo-donna. Terzo punto, Saint-Simon negli esempi che sono stati fatti è in qualche modo la propagine, la coda di una resistenza alla riduzione del nobile a cortigiano, o non c'è più questo aspetto che invece era presente nell'Italia cinquecentesca, anche nello stesso cortigiano, che in qualche modo è la celebrazione del cortigiano come eletto, perché esisteva una resistenza alla riduzione del nobile a cortigiano. C'è ancora una fronda di questa possibilità c'è la possibilità di una fronda a non essere cortigiana, a non ricadere in questo tutto della corte? Sì, su sull'originalità o meno della corte francese nei confronti di altri, temo di essere a parte dell'originalità, nel senso che la posta in gioco mi sembra fondamentalmente di natura simbolica. Questo non significa che non ci sono delle ricchezze, delle larghezze da parte del re, ma significa che la valutazione del rango, del valore al momento di, dipende fondamentalmente di valori simbolici. Ad esempio, io ho fatto uno studio sulla distribuzione degli appartamenti, perché la circolazione degli appartamenti e il ravvicinamento al re è un elemento fondamentale. Si tratta di 10 metri in più o meno, però ravvicinarsi all'appartamento del re anche con delle camere più piccole è un elemento costante, e questo va notato dai diaristi, torna nelle conversazioni, e è come paragonare la sua macchina con quella del vicino di casa: è più bella, è più recente o meno. Lì naturalmente è meramente simbolico, non ha altro senso che creare della distinzione. Io penso che si tratta fondamentalmente di in gioco a somma nulla. Luigi XIV è stato molto attento a separare le cariche reali, cioè i ministri, i misteri, e poi i cortigiani. Sono due sfere che non comunicano, che non è il caso della corte inglese, neanche della corte spagnola. Lì o si è cortegiano o si è un commesso, e in chiavi diversi ambedue possono essere svalutati di un momento all'altro. Il terzo aspetto è che più uno si ravvicina al re, più il rischio si fa grande, e naturalmente più anche si è costretto alla volontà che può intervenire su tutto, cioè di un matrimonio di uno che è remoto nei confronti del re, lui non interviene. Invece sulla la possibilità stessa di un matrimonio di uno che è nel suo circolo più vicino, interviene costantemente. per favorire o sfavorire, per fare o disfare. E direi l'ultima prova di questa di questo aspetto che mi sembra chiara è la formazione dei gruppi di contestazione. Non credo che ci sia nella corte di Luigi XIV, neanche a dir vero nel Settecento, posto per la resistenza individuale, una credente va fuori. Cioè, il caso di Bussy Rabutin, il cugino della Sévigné, che si comporta male, si ostina e passa 40 anni nella sua provincia. Finito. Ma direi Saint-Simon, che è un vecchio scemo, che pensa al regno di Luigi XIII come a un paradiso, perché a questo momento la gloria della sua famiglia, del suo padre, è stata creata, che è ossessionato da questo ethos della resistenza, piega. Cioè, può dire, può scrivere tutto quello che vuole, quando si tratta di scegliere, lui accetta regolarmente. E dunque, sì, esistono questi partiti, queste cabane, che sono state analizzate da loro alla giuria, anche se non condivido la sua interpretazione. Ma lui giustamente osserva che queste tre grandi caballe della corte di Luigi XIV non somigliano a dei partiti monocolori, sono dei sindacati di interessi, e in ciascun caballo si ritrovano tutti gli interessi, cioè è quello che gli americani chiamano una platform, e in ciascun gruppo si trovano interessi contraddittori, così da socializzare i rischi e i guadagni. Ma questo naturalmente non corrisponde all'ethos del nobile, del cortigiano. Sulle donne mi dispiace, ma io credo che veramente il regno delle donne finisca con gli hotel aristocratici, poi riappaiono alla metà del Settecento in chiave completamente diversa, ma che l'idea della socializzazione attraverso le donne, che dà nella società dell'hotel di Rambouillet un posto così centrale alle donne nel processo di civilizzazione, fa di loro quelli che fanno dei guerrieri, dei cortigiani. Questo direi, in uno spazio così addomesticato, credo che non ci sia posto per questo ruolo così di creazione sociale consentito alle donne nell'epoca precedente. Mi pare che è stato già risposto, perché io volevo proprio porre il problema della contestazione, che era una delle cose che più mi interessava, cioè questo modello che lei ha fornito è un modello un po' troppo a tutto tondo per i miei gusti, e capisco che sia però, come dire, l'elemento più interessante da sottolineare rispetto a una specificità anche di un caso francese. Però se noi guardiamo la corte, allora, per esempio, in una prospettiva più dinamica, da Luigi XIV in poi forse è più visibile quello che io voglio dire, però quello che mi chiedevo è, nel discorso relativo, come dire, al potere del re, quanto appunto in ogni caso in questa diciamo in questo suo potere conta, diciamo, nella formalizzazione delle regole del gioco, quanto conta appunto la contestazione a livello sia di cabale sia di congiure, proprio, cioè nel momento in cui alcune regole vengono infrante o si tenta di infrangerle, comunque il re è costretto ad aggiustare il proprio gioco. E quindi questo mi sembrerebbe una chiave per dinamizzare semplicemente, per dinamizzare anche lo scambio, diciamo, alto-basso, se lo si può definire in questi termini. L'altra cosa che è interessante è, come dire, il rapporto corte-corte. cioè mi sembra che esistano a fianco alla grande corte una serie di piccole corti che sono quelle della regina madre, del fratello del re, eccetera, che, come dire, coesistono o si combattono in maniera talvolta drammatica. Cioè, perché questo mi sembra, come dire, un quadro importante? Perché se no non si capirebbe, secondo me, come mai si passa in un livello, diciamo, nominale, non solo logistica, di permanenza a Versailles della corte, da, diciamo, Luigi XIV a Luigi XVI, e quindi anche al disfacimento e a un'apparenza che è sempre più apparenza, cioè la stessa apparenza, cioè quello che mi sembra un po' che se ci si arresta a una serie di trattatistica sul cortigiano, è il vedere il cortigiano semplicemente come qualcuno che deve adattarsi ad un modello e non qualcuno che, infilandosi negli interstizi, ovviamente, non potendosi opporre, però poi riesce anche in parte a modificare le regole del gioco, comunque forse a condizionarle, e sicuramente poi l'epoca storica conta su questo. Sì, sono parzialmente d'accordo, nel senso che non credo che nell'esperienza francese ci sia un momento dove si può dire il re si è dovuto spostare per far fronte a tale situazione. Il re decide a un momento di sostrarsi a certi aspetti della corte. Questa è l'esperienza di Luigi XV, ma non si può dire che sia stato costretto da qualsiasi elemento. Lo decide perché è stupido, perché non vuol pagare il prezzo, perché crede che può comportarsi come un uomo privato, ma non è che lui sia costretto a ritirarsi, al contrario, c'è un'aspettazione molto forte di lui di fare finalmente quello che deve fare. Su quello che ha detto su corte e corti è vero, anche se credo che ci sono due tipi di situazioni. Ci sono delle corti svalutate, per esempio quella della regina madre, la vieille cour, come si diceva sotto Luigi XIV, è presa in giro perché è un conservatorio. Alcuni, come si assimilavano molto, perché lui è un vecchio reazionario, ma è una forma fossile all'interno della corte. Quella di Gaston d'Orléans è supposta essere un luogo di depravazione, apprezzato da alcuni perché è un luogo più intelligente, dove la discussione è più libera, però non si fa carriera alla corte dell'illusione. La situazione invece sarebbe diversa nel Settecento, ma lo statuto delle corti particolari del Settecento cambia nella misura nella quale la centralità della corte del Settecento dopo la regenza è messa in causa. Adesso c'è di nuovo la corte e la legge. E non so, la corte di Sceaux, per esempio, che è stata molto grande, quella della Duchesse du Maine, è molto più un elemento della legge di Parigi che non una corte che compete con Versailles. Non assume la stessa funzione nella distribuzione e l'organizzazione delle forme sociali, almeno lo credo. C'è una dinamica, ma che mi sembra di imperniarsi meno sulle trasformazioni della corte stessa che non sulla la ridefinizione o la riconfigurazione del potere sovrano. Direi l'elemento nuovo è introdotto dal fatto che il re del Settecento, soprattutto Luigi XV, non obbediscono più alla regola del gioco. Questa è la perturbazione per me centrale, molto più che la non conservazione della forma corporale. Ci sono altre domande? ringraziare il professor Revella per questo contributo di stasera che ha dato luogo a un seminario molto intenso e spero di poter accogliere presto questo contributo nella serie delle letture della Fondazione Basso che escono presso l'editore La Terza. Grazie, buonasera.